Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Estate, tempo di leggerezza, di abiti scollati, impalpabili e coloratissimi, di sandali comodi e di tutte le fogge, di bijou spiritosi e di gambe scoperte, per chi se lo può permettere, certo, anche se un po' di leggerezza in meno in questo caso spesso può essere auspicabile, come è auspicabile un attento sguardo critico alla propria figura riflessa in uno specchio prima di uscire di casa. Gambe scoperte che si possono permettere in tante, ma non tutte, e che si permettono, creando scalpore, le neoministre dell'Eliseo, già apostrofate come le Hollandette. Per noi italiani, abituati a ben altri esempi di leggerezza, la cosa può anche passare inosservata, direi. Gambe scoperte come quelle immortalate nella copertina del libro di oggi, Le bugie hanno le gonne corte, di Erin McKean, pubblicato da PM. La McKean si definisce un evangelista dei dizionari. Difatti ne ha curate diverse edizioni per la Oxford University Press ed ha anche scritto dei libri dedicati alle parole strane. Ma niente paura, il libro di oggi non è scritto in ordine alfabetico, si legge bene e la storia è deliziosa. Parla di Dora, che è una ragazza che studia al college e lavora in una caffetteria. Ha un ragazzo e tutto sembra procedere come nella normalità dei casi. Mimi, la nonna di Dora che l'ha cresciuta, viene ricoverata però in gravi condizioni all'ospedale e la ragazza torna a casa per starle vicino e occuparsi del suo negozio di abiti vintage. Mai interessata allo shopping, né tantomeno a questo genere di vestiti, Dora scoprirà le storie segrete di ogni capo di abbigliamento venduto nel negozio di sua nonna, restando coinvolta così in una girandola di vite vissute da gonne, scamiciati, abiti da sposa e altri vestiti che le riveleranno anche qualcosa che le appartiene. Il titolo inglese del libro è The Secret Lives of Dresses. E mantenerne il significato in italiano non è stato giudicato appropriato, mentre più ammiccante e altrettanto senza alcun dubbio è stato ritenuto Le bugie hanno le gonne corte. In effetti il titolo insieme all'immagine della copertina strizza l'occhio al lettore e a chi vi cede non resta che scoprire la vita segreta dei vestiti. Alla prossima! Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.